Viaggio a Öland, domenica 3 aprile. Le oche selvatiche si fermarono a pascolare su un isolotto sotto costa e vi incontrarono oche grigie domestiche che si mostrarono assai sorprese di vederle, sapendo che le loro parenti selvatiche di solito non venivano verso la costa. Curiose e indiscrete fecero mille domande e vollero sapere punto per punto la storia del volpone. Dopodiché, una di esse, che sembrava uguale ad H per età ed esperienza, disse: brutta cosa per voi che il volpone sia stato bandito dalla Scania. Manterrà il giuramento e vi seguirà fino in Lapponia. Se fossi in voi, non sorvolerei lo Småland, ma seguirei la rotta esterna passando per l'isola di Öland. Così il volpone perderà le vostre tracce. Tanto più se vi fermerete per qualche giorno sulla punta meridionale dell'isola, troverete cibo abbondante e ottima compagnia. Era un buon consiglio e le oche selvatiche decisero di seguirlo. Nessuna di esse era mai stata sull'isola di Öland, ma l'oca grigia aveva indicato loro i necessari punti di riferimento. Dovevano volare verso sud fino a incontrare la rotta degli uccelli di passo, poi seguire da lontano la costa del Blekinge. Tutti i volatili che d'inverno soggiornano sulle coste del Baltico e che in primavera si trasferiscono in Finlandia o in Russia seguono questo percorso, facendo scalo a Öland per riposarsi. La giornata era calma e calda, quasi si fosse in estate, ideale per una traversata marina. Ma il cielo non era del tutto limpido, bensì grigio e un tantino coperto, e qua e là ammassi di nuvole scendevano fino alla superficie marina, ostacolando la visuale. Si lasciarono alle spalle l'arcipelago e di fronte a loro fu il mare, liscio come uno specchio, e Nils credette che la terra fosse scomparsa. Non si vedevano che nuvole e cielo. Forse abbiamo abbandonato per sempre la terra, pensò Nils. Forse siamo già in cielo. Ma proprio in quella udì due colpi di fucile e vide salire due nuvolette di fumo. Tra gli uccelli vi fu scompiglio. Cacciatori! Cacciatori in barca! Gridavano. Volate più in alto! Nils s'avvide allora che si trovavano sempre sopra il mare e che non erano affatto in cielo, e in mare si vedevano battelli stracarichi di cacciatori che sparavano senza tregua. I primi stormi di uccelli non li avevano avvistati a tempo ed erano passati troppo bassi. Parecchi corpi scuri caddero e a ogni uccello ucciso i superstiti lanciavano strida dolorose. H prese rapidamente quota e le oche scamparono al pericolo, ma Nils non poteva riaversi dallo stupore. Come si poteva sparare contro creature come H, Ixi, Caxi, Locone? Ma i loro compagni, gli uomini non sanno quello che fanno. Il viaggio continuò senza altri guai. Era tornato il silenzio. Di tanto in tanto un uccello sfinito dalla fatica gridava: Non siamo ancora arrivati! Siete sicuri di seguire la rotta giusta? E i volatili in testa rispondevano: Voliamo diritti su Öland, diritti su Öland. Le anatre erano stanche, i colimbi le superarono. Non volate così in fretta, gridavano le prime. Mangerete tutto voi e noi non troveremo più nulla. Ce n'è per voi come per noi, rispondevano i colimbi. Prima che giungessero all'isola, prese a spirare una lieve brezza che spingeva masse compatte di fumo bianco, come se da qualche parte ci fosse un incendio. A quella vista, gli uccelli furono colti da inquietudine e aumentarono la velocità, ma le volute di fumo si facevano sempre più dense e ben presto ne furono avvolti. Non aveva odore di sorta, era bianco e umido. E Nils comprese allora che si trattava di nebbia, nebbia ormai così fitta che non ci si vedeva alla distanza di un'ala. Mentre prima gli uccelli avevano volato in perfetto ordine, a questo punto presero a scherzare con la nebbia, andando in tutti i sensi per mettersi fuori strada a vicenda, tanto ormai sapevano dove si trovava l'isola. Attenti, schiamazzavano, state volando in tondo, non arriverete mai a Öland. Attente, gridava un'altra voce, se continuate in quella direzione finirete all'isola di Rügen. Non c'era pericolo che qualcuno si smarrisse tra quanti avevano l'abitudine di compiere la traversata, ma per le oche fu dura e i mattacchioni ben presto s'avvidero che erano tutt'altro che certe della rotta. Dove ve ne andate, brava gente? Gridò un cigno accostandosi con compatimento. Vogliamo andare a Öland, ma non ci siamo mai state prima, rispose H, persuasa di potersi fidare di un cigno. E lui, oh, poverine, vi siete sbagliate. State andando verso il Blacking, venite con me, vi farò da guida. Ripartì e le oche dietro, e quando le ebbe allontanate dalla rotta, il cigno scomparve nella nebbia. Le oche volarono ancora per qualche istante a caso, finché non incontrarono altri uccelli e un'anatra si avvicinò. Fareste meglio a scendere e a riposare sull'acqua finché la nebbia non si sia dissipata, consigliò. Si vede che non avete l'abitudine ai viaggi. Quei buon temponi riuscivano insomma a far perdere la trebisonda anche ad H, e Nils s'avvide che le oche continuavano a girare in cerchio senza una meta e avrebbero continuato chissà per quanto se d'un tratto non si fosse fatto udire un cupo rombo di cannone. H tese il collo, accelerò i battiti d'ala. Adesso aveva un punto di riferimento. L'oca grigia domestica le aveva anche detto che sull'estrema punta dell'isola gli uomini avevano piazzato un cannone. L'estremità meridionale di Öland, 3-6 aprile. Nella parte meridionale di Öland si leva un vecchio maniero regale chiamato Ottenby, una tenuta molto estesa che attraversa l'isola da un'estremità all'altra e che è sempre stata il rifugio preferito di una moltitudine di animali. Nel XVII secolo, quando i re andavano a cacciare a Öland, era null'altro che una vasta riserva di cervi. Nel XVIII secolo fu destinato ad allevamento di nobili cavalli di razza e di pecore. Oggi non vi si trovano né purosangue né montoni, ma solo un gran numero di puledri destinati ai reggimenti svedesi di cavalleria. Nessun altro luogo potrebbe offrire in tutto il paese asilo migliore agli animali. Lungo la costa orientale si estende per quasi 3 chilometri l'antico pascolo delle pecore, il più ampio prato dell'isola, dove gli animali possono nutrirsi, giocare e ruzzare a piacimento. E c'è il celebre bosco di Ottenby, con le sue querce secolari che danno ombra e riparano dai venti. Né va dimenticato il lungo muro che attraversa tutta l'isola, separando il terreno demaniale dal resto e trattenendo gli animali dallo sconfinare dalla zona protetta. A Öland si trovano bene i domestici e i selvatici che vi accorrono in gran numero e vi si incontrano cervi, lepri, anatre, pernici. E in autunno vi arrivano per riposare migliaia e migliaia di uccelli di passo che trovano pasture lungo la costa orientale, bassa e sabbiosa. Quando giunsero finalmente sull'isola, le oche selvatiche e Nils discesero sul lido ghiaioso come gli altri uccelli. La terra era avvolta nella nebbia altrettanto fitta di prima, ma Nils restò sorpreso constatando quanti fossero i volatili raccoltisi. La spiaggia era bassa, cosparsa di ciottoli e di pozze semicoperte da alghe. Se la scelta fosse dipesa da lui, mai sarebbe sceso in quel luogo, ma per gli uccelli era un vero paradiso. Anatre e oche pascolavano sul prato, le beccacce saltellavano da un sasso all'altro, altri uccelli nuotavano e pescavano, ma l'affollamento maggiore era sui banchi di alghe ai limiti della marea, dove gli uccelli in fitta folla becchettavano le larve e i vermi. La maggior parte degli uccelli erano lì solo per una breve sosta, prima di riprendere il viaggio, e quando il capostormo riteneva che i suoi compagni si fossero sufficientemente rifocillati, li richiamava al dovere del volo e quelli: Aspetta, aspetta, abbiamo ancora fame. Il capostormo allora: Volete per caso rimpinzarvi tanto da non poter più volare? E così dicendo sbatteva le ali e decollava, anche se troppo spesso capitava che dovesse tornare perché gli altri non lo seguivano. Più in là nuotava una schiera di cigni che si riposavano sull'acqua senza curarsi di prender terra. Di tanto in tanto immergevano testa e collo in cerca di cibo e quando pescavano un boccone particolarmente ghiotto, lanciavano grida che erano come squilli di tromba. Quando li notò, Nils corse alla loro volta perché non aveva mai visto da vicino i cigni selvatici e come lui fecero oche, anatre e colimbi formando un cerchio. I cigni gonfiavano le piume, allargavano le ali come vele, drizzavano il collo e di tanto in tanto uno nuotava verso un'oca o un colimbo e gli diceva qualcosa e la risposta veniva data sempre con tono timido. C'era però uno smergo, un diavoletto nero, che si sentiva soffocare da tanta cerimoniosità ed un tratto si tuffò e sparì sott'acqua. Un istante dopo un cigno mandò uno strido e fuggì, nuotando così veloce che l'acqua attorno a lui prese a spumeggiare. Vi fu poi un secondo che lanciò uno strido e quindi un terzo. Lo smergo però non poteva resistere di più sott'acqua e ricomparve, piccolo, nero e malizioso. I cigni gli si avventarono contro, ma vistolo così piccino si fermarono a mezzo, ritenendolo indegno della loro attenzione. Ed ecco il piccolo smergo rituffarsi e ricominciare a pizzicare loro le zampe. Ne andava della dignità dei cigni, i quali frustarono l'aria con grande strepito d'ali, si lanciarono in avanti come correndo sull'acqua e quando ebbero abbastanza aria sotto le penne s'alzarono in volo. E gli altri uccelli, dispiaciuti di vederli partire, diedero una solenne lavata di capo allo smergo. Nils tornò indietro e si mise a osservare le beccacce di mare. Stavano in lunga fila sulla spiaggia battuta dalle onde e con quelle zampe lunghe, i colli snodati e i movimenti leggeri parevano gru, con la differenza che erano brune anziché grigie. Al sopraggiungere di un'ondata, la fila balzava indietro e quando l'acqua si ritirava le inseguivano correndo. Un gioco che continuavano per ore e ore. Il mattino dopo la nebbia era ancora fitta. Mentre le oche andavano al prato in cerca di pastura, Nils si recò sulla spiaggia per raccogliere cozze che erano abbondantissime. Pensava che forse domani si sarebbe trovato un luogo dove non c'era niente da mangiare e decise di farsi un canestro e di riempirlo di molluschi. Su un prato scorse giunchi flessibili e resistenti che intrecciò in forma di cestino, un lavoro che lo tenne occupato per parecchie ore, ma quando l'ebbe finito se ne sentì molto fiero. Verso mezzogiorno ricomparvero, correndo, le oche selvatiche, chiedendogli se non aveva visto Morten. «No, non era con me», rispose Nils e Akka. «Era con noi un momento fa, ma non sappiamo dove sia finito». Nils balzò in piedi, spaventato, chiedendo se avessero visto per caso nei dintorni una volpe, un'aquila o uomini, ma nessuno aveva visto nulla di sospetto. Morten doveva essersi smarrito nella nebbia. Nils si mise alla sua ricerca. La bruma lo proteggeva, permettendogli di andare ovunque senza essere notato, ma anche impedendogli di vedere. Corse fino alla punta dell'isola, dove si trovavano il faro e il cannone da nebbia. Dappertutto un formicolio di uccelli, ma del papero nessuna traccia. Osò penetrare nel cortile del maniero di Ottenby, ispezionando a una le querce cave del parco. Niente. Continuò la ricerca fino al sopraggiungere dell'oscurità che l'obbligò a ritornare. Camminava a passo lento, scoraggiato. Che cosa ne sarebbe stato di lui senza Locone? Ma ecco che mentre attraversava la grande prateria vide venirgli incontro qualcosa di bianco. Era proprio Morten, sano e salvo e felice di aver ritrovato le compagne. Si era effettivamente smarrito nella nebbia, disse, errando poi tutto il pomeriggio nella prateria. E Nils gli gettò le braccia al collo e lo supplicò di essere più prudente e di non allontanarsi più dal resto dello stormo, cosa che Morten promise. Ma il mattino dopo, mentre Nils passeggiava in riva al mare, riapparvero le oche per chiedergli notizie del papero. Morten era scomparso ancora una volta, come il giorno prima, smarrendosi nella nebbia. Spaventatissimo, Nils ricominciò a cercarlo. Trovò una breccia nel muro di Ottenby, crollato in parte, di là dalla quale l'isola si allargava, e c'erano campi, prati e fattorie. Salì sull'altopiano che forma la zona centrale di Öland e dove ci sono solo mulini a vento. Qui l'erba è rada e disseminata di candidi affioramenti calcarei. Ma di Morten nessuna traccia. Al calare delle tenebre dovette ritornare, persuaso che il papero si fosse definitivamente perduto. Aveva appena scavalcato il muro quando udì il rumore di un sasso che cadeva al suo fianco e gli parve che qualcosa si muovesse. Si avvicinò pian piano e scorse Locone che s'arrampicava a gran fatica sulle pietre, il becco traboccante di ciuffi di radici. Nils, sapendo di non essere stato visto, decise di spiarlo per scoprire il perché delle sue improvvise sparizioni. Non tardò a comprenderlo. Sul mucchio di pietre stava accovacciata un'occhetta grigia che emise un grido di gioia alla vista di Morten. Nils si avvicinò per udire che cosa i due uccelli si dicessero e apprese che l'occhetta grigia era ferita a un'ala e non poteva volare. Il suo stormo l'aveva abbandonata e senza il papero che il giorno prima ne aveva uditi i lamenti e l'aveva soccorsa, sarebbe morta di fame. Morten aveva continuato a portarle da mangiare ed entrambi speravano che guarisse prima della partenza dello stormo di H, ma la poverina, per il momento, non poteva né volare né camminare. Era desolata e Morten cercava di consolarla, assicurandole che non sarebbe partito tanto presto. E infine le diede la buonanotte promettendole di tornare. Nils lasciò che si allontanasse, poi si arrampicò a sua volta sul mucchio di sassi. Era furibondo per l'inganno subito. Voleva dire all'occhetta grigia che Locone era suo e di nessun altro. Doveva portarlo in Lapponia senza perdere tempo, strada facendo, lui. Quando vide da vicino l'occhetta ferita, s'avvide perché Morten le portava da mangiare. Aveva la più bella testina che si possa immaginare. Le piume brillavano come seta, gli occhi avevano un'espressione dolcissima. Alla vista del ragazzo accennò a fuggire, ma l'ala sinistra lussata strisciava per terra, impedendole i movimenti. «Non avere paura», le disse Nils. «Io sono Pollicino, compagno di viaggio di Morten il Papero». Allora Loka chinò il capo in segno di ringraziamento e disse, con una voce così bella che Nils non poteva credere fosse quella di un uccello: «Sono felice che tu sia venuto ad aiutarmi. Il papero bianco mi ha detto che nessuno è intelligente e buono quanto te». Aveva parlato con tanta dignitosa grazia che Nils ne fu intimidito. «No», si disse, «non può essere un uccello. È senza dubbio una principessa stregata». E fu preso da un gran desiderio di far qualcosa per lei. Affondò le manine tra le piume, tastò l'osso dell'ala. Non era rotto, ma solo slogato. Il suo dito, infatti, incontrò una cavità vuota. «Un po' di coraggio», disse all'occhetta. Poi impugnò saldamente l'ala e rimise a posto l'articolazione, strappando un grido di dolore alla povera bestiola che cadde come morta sulle pietre. Nils se ne spaventò moltissimo. Aveva voluto aiutarla, invece l'aveva uccisa. Se la diede a gambe, gli pareva di aver ammazzato un essere umano. Il giorno dopo era bel tempo. La nebbia era scomparsa e H diede ordine di riprendere il viaggio. Solo il papero bianco sollevò qualche obiezione e Nils comprese che non voleva abbandonare la piccola oca grigia, ma H non volle sentir ragioni e lo stormo si levò in volo. Nils saltò in groppa al papero che seguì lentamente il gruppo. Il ragazzo era lieto di lasciare l'isola, pur sentendosi rimordere la coscienza al pensiero della povera bestiola abbandonata. All'improvviso il papero si volse e tornò indietro. Il pensiero dell'occhetta non gli dava tregua e tanto peggio per il viaggio in Lapponia. Con pochi colpi d'ala raggiunse il mucchio di pietre. Nessuno. «Piumafina! Piumafina, dove sei?» prese a gridare Morten. «Sono qui, papero, sono qui, sono qui, ero andata a fare un bagno». E la piccola oca comparve, risanata e fresca. Raccontò che Pollicino le aveva rimesso a posto l'ala e che era pronta a seguire le altre. Le gocce d'acqua le brillavano come perle sul piumaggio marezzato e Nils si disse ancora che era proprio una principessa. La grande farfalla, mercoledì 6 aprile. Da lassù si vedeva tutta quanta l'isola, lunga e stretta, il cui interno sembrava un unico alto pianoro nudo circondato da un'ampia corona di campi ubertosi. E Nils si ricordò allora di qualcosa che aveva udito dire la sera prima, quando, stanco di cercare il papero, si era messo a riposare ai piedi di uno dei numerosi mulini a vento. Poco dopo si erano avvicinati due pastori con il gregge e i cani. Nils si era rincantucciato sotto una scala di legno e E i due, uno giovane e uno vecchissimo dall'aria strana, il corpo grande e ossuto, la testa piccola e un volto dai lineamenti delicati, si erano seduti a un passo da lui. Il vecchio, che sembrava fatto di due parti male accozzate, aveva cominciato a raccontare qualche cosa al compagno che stava ad ascoltare mangiando pane e formaggio. Ecco quello che diceva. Sono convinto, Eric, che un tempo uomini e animali fossero più grandi di adesso e che anche le farfalle fossero gigantesche. So che ce n'era una lunga parecchi chilometri, con ali larghe come laghi, azzurre e con riflessi argentei, così belle che tutti gli animali si fermavano a guardarla, incantati, quando la farfalla volava. Lei però era troppo grossa e le ali la sostenevano a stento. Ma da imprudente qual era, osò spingersi a volo sul Baltico. Fu investita dalla tempesta che le strappò le ali e il corpo precipitò in mare. Dopo essere stata a lungo sballottata, la farfalla mutilata approdò sugli scogli davanti alla costa dello Småland, dove rimase lunga distesa. Se fosse caduta sulla terra si sarebbe decomposta, ma essendo caduta in mare, si fossilizzò e divenne dura come pietra. Ti ricordi che sulla riva abbiamo trovato sassi che sono vermi pietrificati? Credo che lo stesso sia accaduto alla farfalla, trasformatasi in una lunga, stretta roccia in mezzo al Baltico. Tu che ne pensi? L'altro scosse il capo e rispose: Continua, dove vuoi arrivare? Vedi, Eric, riprese il vecchio, questo Öland su cui viviamo non è che il corpo di una farfalla. A nord si distinguono il torace stretto e la testa rotonda, a sud l'addome che termina a punta. Ora devi sapere che divenuta la farfalla una roccia calcarea, su di essa si radicarono sementi di erbe e alberi portate dal vento. Ma fu una cosa lunga e difficile, tant'è che oggi ancora la roccia dell'altopiano è solo in parte coperta dalla vegetazione. Impossibile coltivarlo, la terra è troppo scarsa. A questo punto tu mi chiederai da dove venga la terra ai piedi dell'altopiano, che è il corpo della farfalla. Già, è proprio quello che volevo domandarti, rispose il giovane. Bene, sappi dunque che l'isola si trova in mare da moltissimi anni, durante i quali le onde hanno ammassato sulle sue rive alghe, sabbie e conchiglie, e le piogge hanno portato dall'altopiano sassi e terriccio. E su questo terreno sono cresciuti il frumento, i fiori e gli alberi. Qui sul dorso della farfalla pascolano pecore, mucche, cavalli, ma sulle rive ci sono grossi villaggi di pescatori, persino una città, chiese e presbiteri. Fece una pausa guardando il giovane che, finito il pasto, rimetteva le provviste nel sacco e che gli chiese: Insomma, dove vuoi arrivare? Adesso te lo dico, rispose il vecchio in un sussurro, come se gli confidasse un segreto. Vorrei sapere se i contadini delle fattorie, i mercanti di Borgholm, i villeggianti che vengono qui d'estate, i cacciatori che arrivano d'autunno per le pernici, i pescatori, i pittori che dipingono mulini e pecore abbiano mai capito che la nostra isola è stata un tempo una farfalla che volteggiava con grandi ali iridescenti. Ma sì, rispose il giovane. Basta essere rimasti seduti una sera sugli scogli ad ascoltare gli usignoli, a contemplare lo stretto di Kalmar per capire che quest'isola non si è formata come le altre. E tu credi, chiese il vecchio, che qualcuno abbia provato il desiderio di dare ai mulini ali così grandi da sollevare tutta l'isola per farla volare come una farfalla tra le altre? Ti dirò, fece il giovane, che nelle notti d'estate ho avuto l'impressione che l'isola volesse alzarsi dal mare e spiccare il volo. E il vecchio, come parlando tra sé, chissà perché qui sull'altopiano si trova questa aspirazione all'infinito. L'ho avvertita ogni giorno della mia vita e credo che essa alberghi nel petto di chiunque viva qui. Chissà se qualcuno ha compreso che questa nostalgia viene semplicemente dal fatto che l'isola è una farfalla che rivuole le sue ali. La piccola Carl. Sotto la tempesta, venerdì 8 aprile. Trascorsa la notte sulla punta settentrionale dell'isola, le oche puntarono verso la terraferma. Un forte vento di sud, che soffiava sullo stretto di Kalmar, Le aveva ributtate verso nord, ma erano riuscite ad avvicinarsi alla costa quando all'improvviso udirono tuonare sordamente alle loro spalle e l'acqua al di sotto divenne tutta nera. H arrestò il movimento delle ali lasciandosi cadere verso il mare, ma prima che vi giungessero le oche furono sorprese dal libeccio che sospingeva innanzi a sé nembi di polvere, schiuma salmastra e stormi di uccellini. E la tempesta travolse anche le oche spingendole al largo. Fu uno spaventoso fortunale. Più volte le oche tentavano, ma invano, di tornare verso terra e finirono per andare alla deriva sul Baltico, ben al di là dell'isola di Öland. Non restava che abbandonarsi all'onda. Le oche selvatiche non temevano i cavalloni e si divertivano come bambini sull'altalena, preoccupate solo che i componenti dello stormo non si disperdessero. La situazione, però, non era scevra da pericoli. Il dondolio delle acque metteva sonno alle oche, che di continuo ficcavano il becco sotto l'ala per dormire. Ma H, conoscendo il rischio, gridava di continuo: «Non dormite, oche selvatiche! Chi dorme si stacca dallo stormo ed è perduta!» Ma anche lei cominciava già a sonnecchiare quando scorse qualcosa di rotondo e nero sulla cresta di un'onda. «Foche! Foche, foche!» prese a strillare, levandosi subito in volo. E l'ultima oca sfuggì per un pelo alle zanne della foca che l'aveva assalita. Si ritrovarono nuovamente nella burrasca, sospinte sempre più verso il largo. Tornarono a posarsi sull'acqua, ma ancora una volta il sonno le colse e le foche ricomparvero. Si dovette solo alla buona guardia di H, se anche questa volta riuscirono a sfuggire. La burrasca infuriò tutto il giorno. Molti uccelli in viaggio furono sospinti verso paesi lontani dove morirono di fame. Altri caddero estenuati in mare e annegarono, altri ancora scaraventati sugli scogli finirono preda delle foche. Le oche erano stanchissime, ma non osavano più scendere sul mare coperto di banchi di ghiaccio cozzanti. H temeva che le stritolassero. Al tramonto volavano ancora. L'oscurità pareva scendere più presto del solito, la sera si presentava piena di pericoli e ancora nessuna terra in vista. Le tenebre mettevano paura nel cuore delle più coraggiose, là sotto i ghiacci tuonavano urtandosi, le foche facevano udire i loro feroci canti di caccia, pareva che terra e cielo dovessero inabissarsi. Le pecore. Nils, che teneva gli occhi fissi al mare, d'un tratto ebbe l'impressione che rombasse più forte. Poi, davanti a lui, a pochi metri di distanza, vide una ripida scogliera nuda ai cui piedi si frangevano i marosi. Le oche scendevano in picchiata sulla roccia e Nils credette di finire spiaccicato. Ebbe appena il tempo di meravigliarsi che H non si fosse accorta del pericolo, che già erano arrivati al dirupo e solo allora s'avvide che davanti a loro si apriva l'ingresso semicircolare di una grotta. Le oche vi si infilarono. Erano salve. Per prima cosa si contarono. C'erano tutte, compreso Morten e l'occhetta piuma fina. Mancava soltanto Caxi, prima della fila di sinistra, e nessuno sapeva dove fosse finita. Ma Caxi era vecchia ed esperta, conosceva percorsi e abitudini dello stormo, senza dubbio le avrebbe ritrovate. Solo allora cominciarono a esplorare la grotta. Era larga e profonda, e già si rallegravano di quel buon rifugio quando scorsero punti verdi brillare in un angolo buio. «Occhi!» gridò subito H. «Qui ci sono grossi animali!» Le oche si precipitarono verso l'uscita, ma Nils, che nel buio ci vedeva meglio, le trattenne. «Non c'è pericolo, sono solo pecore!» Abituatesi alla semioscurità, anche le oche finalmente le distinsero. Ce n'erano di adulte e di agnellini. Ne mancava un grosso montone dalle corna ricurve che sembrava il capogruppo. Le oche gli si avvicinarono con molti inchini e gli dissero: «Che piacere incontrarti!» Ma quello zitto. Temendo che la loro presenza fosse sgradita alle pecore, H chiese: «Vi dispiace che siamo entrate nella vostra casa? Non è colpa nostra, è stata la bufera a sospingerci!» Ancora nessuna risposta. Ma finalmente una vecchia pecora dal muso lungo e l'aria triste disse con voce lamentosa: «Nessuna di noi vi rifiuterà asilo, ma la nostra casa è in lutto e non possiamo ricevere gli ospiti con tutti gli onori.» «Non datevene pensiero», replicò H. Se sapeste quanto abbiamo sofferto oggi, comprendereste che ci accontentiamo solo di un angolo in cui dormire. Intervenne allora il montone a dire: Sarebbe meglio che volaste nella tempesta più furibonda, anziché fermarvi qui, ma comunque vi offriremo quanto di meglio c'è nel nostro rifugio. E condusse le ospiti a una fossa piena d'acqua accanto alla quale c'era un mucchio di paglia e fieno e spiegò che erano stati i contadini a preparare quelle provviste perché l'inverno era stato particolarmente rigido. Le oche mangiarono di buon appetito, ma s'avvidero che le pecore tremavano di paura. Finito il pasto, pensarono a farsi una dormita, ma il grosso montone si avvicinò e disse: Non oso lasciarvi dormire senza avvertirvi del pericolo che ci minaccia. Se proprio lo desiderate, ce ne andiamo, rispose H, ma diteci almeno cos'è che vi minaccia. Quest'isola è la piccola Karl, spiegò il montone. È situata a ovest di Gotland e qui non ci sono che pecore e uccelli marini. Continuò spiegando che loro erano pecore selvatiche, che nulla avevano a che fare con gli uomini e che esisteva un antico patto tra esse e i contadini del Gotland. Questi le rifornivano di cibo negli inverni rigidi, prendendo in cambio le pecore in soprannumero. E allora, qual è il pericolo che vi minaccia? Chiese H. L'anno scorso, riprese il montone, il freddo è stato così intenso che il mare è gelato e attraverso il ghiaccio sono giunte sull'isola tre volpi che l'hanno eletta a propria dimora. Di giorno non osano assalirci, le mie corna sono una valida difesa, ma lo fanno di notte quando dormiamo dentro la grotta. In quella vicina hanno già sgozzato un gregge numeroso come il nostro. Credete probabile che verranno anche questa notte? Chiese H. È assai probabile. La notte scorsa ci hanno rubato un agnello e continueranno finché non resterà nessuna di noi. E così la razza delle pecore selvatiche si estinguerà sulla piccola Carla. H restò titubante a lungo. Riprendere il volo in una tempesta come quella non era piacevole, e d'altra parte, come cavarsela in un luogo dove si attendevano ospiti così pericolosi? Finalmente si rivolse a Nils. Saresti disposto ad aiutarci come hai già fatto più volte? Chiese. Il ragazzo rispose che ne sarebbe stato ben lieto. E H, so che non è piacevole restare svegli, ma ti pregherei di vegliare e chiamarci se per caso venissero le volpi. Nils promise di farlo perché sapeva che le oche erano più stanche di lui. Si rannicchiò dietro una pietra all'ingresso della grotta. A poco la burrasca scemò, il cielo tornò limpido. Il mare riapparve tremolante alla luce della luna. La grotta s'apriva a metà di una ripida parete e vi si giungeva solo per uno stretto sentiero che le volpi dovevano percorrere per forza. Non le si vedeva ancora, ma il ragazzo scoprì qualcosa d'altro che lo riempì di paura. Sull'angusta spiaggia ai piedi della scogliera c'erano dei giganti, o forse demoni, o magari uomini di altissima statura. Dapprima credette di sognare, poi si persuase che non era un'illusione. Alcuni dei mostri erano in riva all'acqua, altri vicini alla rupe, come se volessero scalarla. Questi avevano un testone enorme, quelli non ne avevano affatto, e se alcuni avevano un braccio solo, altri erano gobbi davanti e dietro. Il terrore del ragazzo era tale che quasi dimenticava il suo dovere di sentinella. Ma proprio allora udì il rumore di un'unghia che grattava sui sassi e scorse tre volpi che avanzavano furtivamente lungo il sentiero. Di colpo sentì svanire la paura, corse nella grotta, svegliò il montone scuotendolo per le corna, in pari tempo balzandogli sul dorso. Alzati, andiamo a mettere un po' di paura alle volpi, gli sussurrò. Per quanto avesse cercato di non fare rumore, le volpi qualcosa dovevano avere udito e, giunte all'ingresso della grotta, si arrestarono per tenere consiglio. Una delle tre disse che là dentro qualcuno s'era mosso, la seconda chiese se per caso le pecore non erano sveglie e la terza, bah, e che vuoi che ci facciano? Finalmente si decisero a entrare, fiutando in giro. Quale prendiamo questa notte? Sussurrò la prima. Il grosso montone, bisbigliò l'ultima, spacciato lui, faremo meno fatica con le altre. Nils vide le volpi avanzare strisciando e sussurrò all'orecchio del montone: Tira una cornata proprio davanti a te. Il montone obbedì e la prima volpe venne scaraventata verso l'ingresso della grotta. Ora un colpo a sinistra, ordinò Nils, spostando nella direzione giusta la grossa testa del montone. La botta fu tale che la volpe ruzzolò come una palla prima di riuscire a rimettersi in piedi e a fuggire. Il terzo predone se la diede a gambe e Nils poté trascorrere il resto della notte in santa pace.